Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro di un professore spagnolo, José Antonio de Aguirre, La lezione della crisi economica. E ne parliamo con Lorenzo Infantino. Buonasera Infantino. Buonasera, buonasera. Lorenzo Infantino è docente della LUIS e ha scritto la presentazione di questo libro che è edito da Rubettino. Ma innanzitutto parliamo di José Antonio de Aguirre perché è una personalità importante, Lorenzo Infantino. Sì, è senz'altro, è un uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo studio dell'economia monetaria e anche degli assetti istituzionali che stanno dietro le diverse economie, quindi un uomo di profonda cultura economica che adesso ha concentrato la sua attenzione su questo problema della crisi. È da vari anni che si occupa di questo, ma recentemente ha pubblicato anche in Spagna un grosso volume di teoria economica che insomma riassume tutto quello che lui ha fatto nella sua vita. Ecco, questo libro molto molto agile, sono 170 pagine, proprio La lezione della crisi economica, sono quasi lezioni molto molto semplici che prendono in mano proprio la tematica dell'economia, una tematica complessa, soprattutto nella prospettiva della moneta. Diciamo che la posizione di Aguirre è abbastanza così anticonformista o anticonvenzionale, Lorenzo Infantino? Sì, sì, senz'altro. Aguirre scrive questo libro come completamento di una opera che aveva scritto assieme a un altro autore e il titolo inglese è per l'appunto Lezioni brevi. Questo per dire che è un libro semplice, quindi gli ascoltatori non devono temere di avere difficoltà nella lettura del testo. È un libro che tutti dovrebbero leggere e che tutti possono leggere, e Aguirre si occupa della crisi. La sua imputazione causale è diversa da quello che dicono gli altri, perché ovviamente è la sua posizione teorica che è diversa. Aguirre ha introdotto in Spagna la public choice, è stato uno studioso di Buchanan e conosce molto bene la teoria monetaria austriaca. Quindi mostra come il sistema della banca centrale produce uno squilibrio permanente fra l'offerta di moneta e la domanda di moneta, e questo porta anche alla insolvibilità degli stati, alle crisi del debito pubblico, a tutte le cose a cui abbiamo assistito, porta alle bolle speculative che sono sempre in incubazione allorché l'offerta di moneta è superiore alla domanda. E quindi sono tutti temi che fanno riferimento a problemi che noi abbiamo vissuto in questi anni. Aguirre affonda le proprie radici in un interrogativo che aveva posto già alla fine dell'Ottocento Karl Menger, il quale aveva richiamato l'attenzione di tutti gli economisti dell'epoca, che purtroppo non lo hanno ascoltato, e in cui appunto Menger poneva in evidenza le difficoltà a cui saremmo andati incontro attraverso l'adozione di un sistema di banca centrale con la carta moneta inconvertibile. Ecco perché la moneta che doveva essere garantita da una banca centrale, la banca centrale avrebbe dovuto garantire la solvibilità della moneta, il valore di questa moneta, poi si è trasformata in una potenzialità a dismisura da parte delle banche centrali di togliere il denaro dal mercato facendone qualcosa di diverso, facendone qualcosa che diventa un'espressione quasi della politica più che dell'economia. Sì, perché Aguirre pone in evidenza, come si rifà al saggio sulle origini del denaro di Karl Menger, e pone in evidenza come questa carta moneta a corso forzoso sia un mezzo di pagamento ma non sia più denaro nel senso economico del termine, come si era affermato nel corso dei secoli. E quindi Aguirre, utilizzando anche il lavoro di due grandi studiosi americani che da anni si occupano di queste cose, Selgin e White, e suggerisce di abbandonare questo sistema della banca centrale con la carta moneta a corso forzoso e quindi di giungere a un sistema con una riserva multipla, non una riserva nazionale, ma una riserva multipla con un sistema competitivo di banche, che era poi un sistema che aveva anche auspicato Adam Smith, che come a tutti noto è il fondatore della disciplina. Insomma, io credo che questo libro, che è un libro non molto esteso perché sono 170 pagine circa, e questi capitoletti direi meglio fatti a mo' di lezione siano veramente uno strumento di apprendimento e anche uno strumento attraverso cui noi possiamo vedere delle cose diverse da quelle che abbiamo visto finora o da quelle che ci vengono dette tutti i giorni. Ecco, capire l'economia è certamente un passo in avanti per cercare di affrontare anche questi temi, certamente temi molto vasti, ormai il mondo è su una certa dimensione, in una certa prospettiva, di banche centrali ce ne sono fin troppe nel mondo e certamente anche intaccare questa realtà può sembrare velleitario, però approfondire anche su una prospettiva diversa, diciamo, direi così, non convenzionale, questa tematica può offrire degli spunti di riflessione molto interessanti. È una prospettiva non convenzionale e in fondo Aguirre ci dimostra con queste sue pagine, ci dimostra che è possibile capire l'economia senza fare equazioni, sistemi di equazioni e senza impancarci in grandi sistemi matematici. È ciò che desidera ogni cittadino, essere consapevoli delle cose che accadono. Anche perché la parola economia va sempre collegata con la parola società, non c'è un'economia teorica. È un fenomeno sociale l'economia, su questo non c'è alcun dubbio e Aguirre ce ne dà la dimostrazione. Grazie Lorenzo Infantino di averci introdotto a questo libro di José Antonio de Aguirre, ricordo il titolo, La lezione della crisi economica, quello che è stato e quello che verrà, l'editore è Rubettino, le pagine sono 178, il prezzo sono 13 euro. E dopo aver parlato con Lorenzo Infantino di moneta, di credito, di crisi economica, di banche centrali, di ricchezza, torniamo su questo tema guardandolo dal lato opposto, guardandolo dal lato della povertà. E parliamo della lotta alla povertà, rapporto 2014 della Fondazione Emanuela Zancan, che è edito dal Mulino. Un rapporto molto ricco di dati, molto ricco di elementi di giudizio, un rapporto che propone anche alcune osservazioni costruttive su come indirizzare la politica di welfare italiano verso una maggiore lotta alla povertà, una maggiore lotta alle disuguaglianze. Ecco, bisogna dire che mai come in questo periodo il tema delle disuguaglianze è diventato quasi una moda, è diventato di discussione pubblica, soprattutto negli ultimi mesi, per il successo di critica e di pubblico di un libro abbastanza noioso, devo dire, come quello di Thomas Piketty, l'economista francese, Il capitale nel XXI secolo, un libro noioso forse, ma anche interessante, in cui si dimostra, l'economista francese dimostra sulla base di dati empirici come il progresso economico negli ultimi decenni abbia fatto crescere il divario tra i ricchi, che sono sempre più ricchi, e i poveri, che sono sempre più numerosi. Un libro, questo di Piketty, certamente ricco di dati, di serie storiche, di precisazioni metodologiche, è interessante anche appunto perché non si ferma ai numeri, ma entra nella discussione politica, e sociale. Altrettanto fa, pur se in modo molto diverso, guardando soprattutto all'Italia, alla realtà italiana, questo libro della Fondazione Emanuela Zancan, lo ricordo, La lotta alla povertà, edizioni del Mulino, un rapporto che ha un sottotitolo molto significativo, Welfare generativo, responsabilizzare, rendere, rigenerare. Ecco un titolo forse complesso che però indica una prospettiva in cui il welfare non è solo una realtà derivante dalle scelte dello Stato che resta fondamentale, ma che si basa anche sulla responsabilità dei singoli. In questo rapporto infatti non c'è solo un'analisi dettagliata quanto allarmante della realtà sociale italiana, ci sono anche indicazioni molto precise e significative di come modificare le attuali politiche di welfare che sono incentrate sulla previdenza, sugli aiuti monetari, anche questi abbastanza bassi, per valorizzare appunto quell'intervento pubblico che è fondamentale, ma anche fondamentali sono le iniziative del terzo settore e del volontariato. E questa prospettiva appunto del welfare generativo che passa attraverso la responsabilità, per cui ognuno deve sentirsi partecipe del bene comune, la restituzione, secondo la logica evangelica della parabola dei talenti, chi ha avuto di più deve dare di più, deve restituire di più alla società, e la rigenerazione per rendere la società più coesa, più viva, più cosciente, più protagonista, afferma il rapporto. Quindi invertire la tendenza che ha portato negli ultimi anni alla crescita della povertà, alla crescita della disoccupazione, all'emarginazione. Ecco, due, tre temi, tre prospettive che sono difficili da affrontare, ma sono fondamentali per una società che voglia essere una società più giusta, più equa, più sensibile alle esigenze e al rispetto della dignità di ogni persona. Anche perché, sottolinea il rapporto, alla dimensione strettamente economica della povertà si aggiungono altre realtà preoccupanti, come la crescita di quella che viene chiamata povertà sanitaria, con un sempre maggior numero di italiani che rinunciano alle cure o che si rivolgono agli ambulatori sociali nati in molte città grazie al volontariato per aiutare gli stranieri, ma ambulatori a cui accedono sempre di più anche delle persone italiane. Quindi molte notizie allarmanti in questo rapporto della Fondazione Zancan, per esempio il fatto anche che le stesse politiche pubbliche, pensiamo alla social card che alcuni anni fa era stata lanciata con grande enfasi, ebbene lanciata nel febbraio del 2012, due anni dopo di questa social card si sono viste sì le carte, ma non si sono visti gli stanziamenti relativi e non era stato distribuito nemmeno un euro alle famiglie bisognose. E poi c'è l'altro fronte, quello che riguarda la crescita delle disuguaglianze, con l'aumento del 7% del numero dei miliardari e con la loro ricchezza che è salita addirittura del 18,6%, e l'Italia nella graduatoria mondiale dei miliardari ha incrementato la propria posizione salendo al 15° posto, mentre prima era 17°. La crisi finanziaria non ha colpito, ma ha incrementato la ricchezza, ma solo dei più ricchi. Quindi il problema di fondo è quello di dare una chiarezza di scenario alle prospettive del welfare. Questo si può basare solo con una considerazione, con una analisi della realtà efficace, come questo rapporto della Fondazione Zancan, che ricordo edito dal Mulino, a 200 pagine e costa 19 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Vi ricordo i due libri di cui abbiamo parlato oggi: La lezione della crisi economica, quello che è stato e quello che verrà, edito da Rubettino, di José Antonio de Aguirre, e il rapporto 2014 sulla lotta alla povertà della Fondazione Emanuela Zancan. Grazie, l'appuntamento è per sabato prossimo.